Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insorgante traghettatore, ben trovati in questa prima puntata del 2013. Partiamo subito con una notizia tutto sommato importante: 1 milione di euro in palio per la migliore idea che crea occupazione sociale, però valorizzante il patrimonio artistico del nostro paese. Quindi coniuga due elementi, sociale e patrimonio artistico, che sono decisamente fra i valori più importanti del nostro paese. A lanciare questo fantastico progetto è Idea 360, che è un'iniziativa legata alla Fondazione Accenture. Si possono presentare questi progetti sia in forma singola che in gruppo, sia come no profit, fondazioni, associazioni, comunque in ogni caso organizzazioni di volontariato. La sfida è aperta, si possono presentare i progetti fino alle ore 12 del 25 marzo, quindi c'è tempo. E da Accenture a un'altra grande azienda, un'azienda tutta italiana, questa volta Gucci, un marchio mondiale importante. Ancora una volta parliamo di responsabilità sociale, questa volta c'è proprio un marchio, Gucci Responsibility, che racchiude un po' tutte le iniziative del gruppo. Rossella Ravagli è responsabile CSR e sostenibilità. Buongiorno Rossella. Buongiorno. Perché è nato addirittura un marchio? Evidentemente segno di attenzione, ma perché sono tante le iniziative forse? Sì, certamente, ad un logo si assegna innanzitutto un'identità e un insieme di valori che fanno parte del nostro DNA. E il desiderio di fornire coerenza a tutte le iniziative volte alla responsabilità sociale e ambientale, in senso più ampio, alla sostenibilità, ci ha spinto ad ideare un nuovo logo, Gucci Responsibility. Il logo riprende il simbolo iconico della nostra GG incrociata, laddove una delle prime due G, la prima è di colore verde, e la parola Responsibility ai piedi del logo testimonia l'importanza del valore della sostenibilità nella strategia della nostra azienda. Tra l'altro stiamo parlando di un'azienda tanto importante quanto, come dire, inserita in un contesto critico, non Gucci in quanto tale, ma in generale il settore della moda, delle grandi griffe, che dal punto di vista della responsabilità, per esempio nella produzione, sono state alle volte, come dire, nell'occhio del ciclone. Quindi immaginiamo che uno dei filoni più importanti del senso di responsabilità sociale di Gucci sia proprio nella filiera produttiva, no? Assolutamente sì, la forza di un marchio globale sta assolutamente nelle sue radici. Gucci è prima di tutto una realtà locale, è sicuramente una storia di successo, e il legame con il territorio e tutti gli attori del territorio è ancora oggi alle radici di questo successo. Gucci impiega più di 8.000 persone in tutto il mondo, alimenta un indotto, quindi una filiera, in cui lavorano più di 45.000 persone in Italia, solo più di 7.000 nel settore della pelletteria, quindi si concretizza una rete di fornitori e subfornitori fatto di piccole e piccolissime medie imprese che assolutamente abbiamo deciso di tutelare e di valorizzare e che costituiscono il nostro patrimonio più importante. Ecco, quindi nella relazione con i fornitori, con i clienti, nel rispetto delle regole del lavoro eccetera eccetera, si misura anche la responsabilità di Gucci. Immaginiamo che sia un po' questo il criterio di fondo. Assolutamente, questo impegno tra l'altro è stato anche sancito per iscritto già nel 2009, quando abbiamo deciso di avviare, dar vita a un comitato per le politiche di filiera, partecipato da Confindustria Firenze, da CNA Firenze, dalle organizzazioni sindacali, CGL, CISL e UIL, un accordo sicuramente il primo nel settore e unico, caratterizzato da una forte volontà, una comune volontà di identificare strategie condivise volte a sostenere, a valorizzare e a promuovere la filiera Gucci e il territorio forentino, quale patrimonio di conoscenze da tutelare. Un'ultima battuta velocissima, siamo in chiusura: avete anche firmato il protocollo di Carbon Footprint con il Ministero dell'Ambiente, che vi porta a fare cosa? Ci porta a valutare e a fotografare, quindi a valutare, a migliorare e naturalmente a ridurre le nostre emissioni di CO2 a partire dalla materia prima fino ai prodotti che verranno venduti nei negozi. Grazie a Rossella Ravagli, CSR Sostenibilità di Gucci. Buon anno Rossella. Grazie altrettanto. Chiudiamo con una segnalazione: fino ad oggi è l'ultima giornata in cui si potrà vivere il Tinkering Pensa con le Mani, laboratori interattivi, animazioni teatrali per bambini al Museo della Scienza e della Tecnica, che ha deciso così di inaugurare questo 2013. È tutto per questa puntata di Ferribot. Cliccate su mi piace in Ferribot-Radio24. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Gianmarco Ferronato in regia. Buon anno a tutti.